Buonasera a tutti, inizia ora il programma Zardins Magnetics in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine e andremo avanti fino alle ore 21:30, quindi quasi un'ora e mezza. Andiamo con la sigla di questo programma che è Retribution dei Behind Enemy Lines. Destroy the heretic because he resists us. As long as he resists us, we never destroy him. We make him one of ourselves before we kill him. Bene, siamo tornati qui in diretta dopo questo brano che è saltato, probabilmente. Vabbè, ci sarà qualche problema, vi dico che è un CD, comunque questi che abbiamo ascoltati erano i Behind Enemy Lines ed era il brano Retribution, sigla di questa trasmissione che è iniziata ora, pochi minuti fa, e andrà avanti fino alle 21:30 qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Andiamo ora invece con l'ascolto di questa band belga, una band di questi ultimi 20 anni, diciamo col nuovo millennio. Si sono formati questi Visions of War e ci ascoltiamo un paio di brani dal loro ultimo album, anche se è datato 2013, ma è una band tuttora attiva. I brani che estrapoleremo, che ascolteremo, sono appunto da questo loro album King of Swinies. Loro sono i Visions of War. E intanto ci stiamo ascoltando questi Visions of War, band belga, da questo loro ultimo album datato 2013, Kings of Swines. Evasione dal carcere di Treviso il 2 gennaio 1977. Prima parte. Dal libro Un contadino nella metropoli di Prospero Gallinari. Lavoro complicato. La sospensione del processo significa la ripresa delle peregrinazioni fra le carceri. Verona, Padova, è l'inizio di settembre, quando vengo di nuovo trasferito. In qualche modo mi spiace lasciare Padova. In sezione con me ci sono anche alcuni compagni e del resto anche lì una ideuzza su come tentare la fuga dalla finestra del bagno. Complice la nebbia dell'inverno, ce la siamo fatta. Poi, per quel che può valere in carcere, si sta discretamente. Ci sono spazi interni di movimento, si può cucinare individualmente. Anche il cibo provvisto dal carcere si può averlo crudo e cucinarlo da sé. Grossa riforma in galera, dal momento che la sbobba di Casanza è quasi sempre un intruglio scotto decisamente in sapore. Come al solito, matricola, carabinieri e si parte. Non mi portano molto lontano. Treviso. Carcere a tre sezioni, penale, giudiziario, minorile. La vita si fa subito un po' agitata perché le seconde scosse del terremoto friulano si fanno sentire anche lì e benché si avvertano solo lievemente, i detenuti hanno giustamente paura a restare chiusi nelle celle durante la notte. L'arrivo di parecchi prigionieri provenienti da Udine, trasferiti d'urgenza dal carcere fortemente danneggiato dal sisma, non fa che aumentare la tensione. Ci raccontano delle due scosse fortissime, dei muri profondamente crepati e delle guardie che hanno buttato le chiavi, scappando disordinatamente all'aperto. Chiusi come topi in trappola, non hanno potuto far altro che attendere terrorizzati e per interminabili ore si sono susseguite altre scosse, per fortuna di assestamento. L'esperienza degli udinesi ci serve da lezione. Riusciamo a ottenere dalla direzione che almeno per il periodo critico le celle restino aperte anche di notte. Solo l'uscita al passeggio rimane bloccata, ma siamo abbastanza tranquilli perché il cancello non è robustissimo e in caso di pericolo siamo convinti di poterlo abbattere con 4 serie spallate. Pomeriggio al campo si avvicina un detenuto. Sono Pietro Montecchio. Come a volte capita in carcere, ci eravamo già parlati, ma mai visti di persona. Era caduto alle celle di isolamento di Verona. Lui era passato di lì subito dopo l'ennesimo arresto. Io ero un attimo in punizione. Chiacchierata via spioncino. Quando i curricula sono consistenti e sono pubblici, per fidarsi tra detenuti bastano i nomi. Pietro era mala pesante del Lombardo Veneto, con alle spalle una notevole scia di rapine e di evasioni. Io ero un brigatista doc, per entrambi una condizione più che sufficiente per saltare i preamboli. Mi dice che c'è un lavoro in piedi. Lui è appena arrivato per un interrogatorio, non sa quanto resterà, ma spera che sia a sufficienza per concretizzare l'ipotesi. Ormai non manca molto alle feste di Natale. Se si riesce a ritardare il trasferimento sino al 15 dicembre, si è quasi certi di non partire più, fino almeno alla Befana. I carabinieri devono fare, anche loro, le sacrosante licenze festive. Siamo in due sezioni diverse e affinché l'evasione riesca, bisogna avere la forza di prendere le guardie comandate in entrambe. Al penale ci sono già sufficienti detenuti coinvolti nel progetto. Nel giudiziario bisogna vedere chi può starci. Due bravi ragazzi, gravati da capi d'accusa sufficienti a interessarli al lavoro, li individuo facilmente, Cecco e Morini. Il lavoro entra nella fase calda. Tutto parte con un detenuto che va in licenza, anche lui bravo ragazzo. Una volta fuori deve tirare dentro il muro di cinta, badando a indirizzarlo verso il campo sportivo, un pallone di cuoio speciale, una specie di uovo di Pasqua, contenente nella camera d'aria due pistole regalo, niente affatto giocattolo. Il guaio è che nella stessa notte su Treviso cade una marea di neve e il giorno dopo sul campo ce n'è oltre mezzo metro. Non sono mai stato capace di giocare a calcio, neanche da ragazzo. In genere il pallone mi inciampa sui piedi. Quel giorno però entro in squadra pure io. 12 giocatori, 6 contro 6, evidentemente pazzi, per gli altri detenuti e per le guardie, che sbraitano, fanno finta di divertirsi e danno calci alla neve, cercando di scavarne il più possibile. Non troviamo niente. Passano i giorni, i colloqui, le telefonate, poi finalmente arriva la conferma. Il pallone c'è ed è stato anche tirato dentro, ma al lato del muro di cinta dal quale si è effettuata la rimessa era quello sbagliato. La preziosa sfera è finita nella parte del carcere in cui si trova il passeggio della sezione minorile, un passeggio inaccessibile agli adulti, ovviamente. Scoramento collettivo e labile speranza. L'infermeria del carcere è unica per tutto il penitenziario, compreso il minorile. Un detenuto, che è andato diverse volte in visita medica, dice di avervi incontrato un ragazzo della sezione minorenni adibito alla mansione di Scopino, cioè alle pulizie. Non gli ho mai parlato, ma ha la faccia sveglia. Non è molto come base di partenza. Ma al punto in cui siamo, ogni strada va tentata fino in fondo. Decidiamo di avvicinarlo. La mattina dopo, all'ora d'aria, vado al piano superiore. Dalla finestra di una cella si vede un bel gruppetto di ragazzi che, passeggiando nel cortile, scava allegramente la neve. I minorenni trovano il pallone e con un calcio ben calibrato lo tirano nel nostro passeggio. Sono tutti ragazzi. Quanto riusciranno a star zitti, a non vantarsi del salvataggio effettuato? Preoccupazione inutile, alla luce dei fatti si dimostreranno molto seri. Quanto a noi, con il recupero del pallone siamo pronti all'esecuzione del piano, ma aspettiamo ancora qualche giorno per verificare la possibilità di un appoggio da fuori, un paio di macchine, qualche forma di copertura. Tutto può essere utile una volta messi i piedi fuori dal carcere. Siamo all'antivigilia di Natale. Già per due sere consecutive, con le scuse più disparate, una telefonata da fare, una domanda in matricola, una visita dal medico, un'udienza col maresciallo, I prigionieri coinvolti nel progetto si erano trovati in portineria, all'ora stabilita. Il piano doveva scattare nel momento in cui da fuori alcuni ex detenuti, nel frattempo convinti a darci manforte, si sarebbero fatti sentire. A quel segnale saremmo partiti anche noi. Non era successo mai nulla e infatti dal colloquio giunge la notizia che il progetto del sostegno esterno è saltato. Alcune cose non sono andate bene e da fuori non possono più venire ad aiutarci. Ripieghiamo ma non molliamo. Con tutti i rischi del caso, senza macchine pulite disponibili, tenteremo lo stesso, da soli. Decidiamo per il 2 di gennaio. Come si dice in gergo, siamo operativi. A questo punto bisogna creare le condizioni perché la cosa riesca. La mancanza di appoggi dall'esterno, l'assenza di mezzi disponibili per la fuga, rischia di allungare i tempi con i quali ci allontaneremo dal carcere. Bisogna allontanare anche il momento nel quale scatterà l'allarme. In un carcere in genere si trova di tutto, dai bravi ragazzi, di cui ti puoi fidare anche se non hanno niente a che vedere con te, a quelli disinteressati che si fanno comunque i fatti loro, a quelli che, se non neutralizzati tempestivamente, risultano invece molto interessati a tutto ciò che succede. In galera il mestiere della spia paga, moneta da poco, ma pur sempre moneta. Così, alcune ore prima della partenza, andiamo a parlare con alcuni dei bravi ragazzi sparsi nelle sezioni. Non verranno con noi perché condannati a pene lievi o con processi ancora in corso, ma possono aiutarci andando a prendere un caffè al momento giusto, in quelle celle dove potrebbe partire un avvertimento verso le guardie del muro di cinta. La sola presenza fisica del bravo ragazzo sarà di per sé il deterrente migliore. In certe situazioni stare zitti è obbligatorio anche per l'infame più incallito. Sottofondo stiamo ascoltando questa band dell'area di Bologna, loro sono gli Skuld ed è una formazione recente, anzi questo è il loro primo album d'esordio datato 2020 e che si chiama Reinventing Darkness, loro sono gli Skuld. e mandi a tutte e a tutti anche da parte mia. E continuiamo, come abbiamo fatto già un po' lo scorso giovedì, a parlare di Belmonte Cavazza, della sua situazione e anche delle misure che lo toccano, che non riguardano chiaramente solamente lui. E vi leggerò questo documento che approfondisce le faccende contro stato di tortura e misure di sicurezza. Pochi giorni fa Belmonte Cavazza aspettava di varcare la soglia del carcere di Piacenza, andando finalmente incontro alla libertà. La sua condanna di 19 anni sarebbe dovuta terminare il 19 aprile. Veniva invece trasferito il 23 aprile presso la casa di lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La ragione? Una misura di sicurezza disposta nei suoi confronti nel 2003. Le misure di sicurezza introdotte da Mussolini nel 30 e ancora in vigore, si basano analogamente alla sorveglianza speciale, che è una misura di prevenzione, su un giudizio di pericolosità sociale. Ciò che rileva è la personalità dell'individuo, le sue abitudini ed il suo profilo. Queste misure vengono disposte sulla base di un pregiudizio giuridico di possibile reiterazione del reato, sulla condotta comportamentale durante la detenzione, sull'essere stato condannato o prosciolto per parziale o totale infermità di mente. Possono essere comminate dal giudice come misure accessorie, diventano cioè eseguibili una volta che la pena alla quale si è stati condannati è terminata. Tali misure di sicurezza vengono anche definite ergastolo bianco. L'ergastolo bianco è rinnovabile all'infinito, non essendo previsti per legge termini di durata massima. Di fatto, un'altra pena di morte viva, forse la più dimenticata, visto che è opinione diffusa che le case di lavoro non esistano più. Deputati all'internamento di chi è in esecuzione di una misura di sicurezza, oltre alle case di lavoro, sono le colonie agricole e le REMS, che hanno sostituito qualche anno fa i vecchi ospedali psichiatrici e giudiziari, destinate a chi viene prosciolto da un reato per infermità mentale. Dentro questi luoghi si trovano rinchiusi gli ultimi degli ultimi dei circuiti detentivi, persone che non possono contare sul sostegno di una famiglia o di una rete di relazioni. Nonostante le informazioni su tali luoghi siano difficilmente reperibili, sembra che ad oggi, a seguito della chiusura di quella presente sull'isola di Favignana, in tutta Italia rimangano tre case lavoro: a Vasto, a Castelfranco Emilia, in cui è presente anche una sezione a custodia attenuata, e ad Isili, in Sardegna, dove c'è una sezione denominata Colonia Agricola. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il forte urbano di Castelfranco Emilia, dove appunto è rinchiuso Belmonte Cavazza, fu un luogo di prigionia, una casa lavoro fascista, scenario nel 1944 di esecuzioni nei confronti di partigiani, antifascisti e disertori alla leva. La storia a venire non ha riservato a quel luogo un'infamia minore, considerati alcuni dei soggetti che ci hanno messo le mani in pasta. Nel 2005 vi nasceva la colonia agricola penale per persone tossicodipendenti, la cui gestione veniva affidata, per volere del ministro Castelli, all'associazione di Andrea Muccioli della comunità di San Patrignano. Fu sponsorizzata da Carlo Giovanardi e inaugurata alla presenza di Gianfranco Fini come un nuovo fiore all'occhiello. Il forte urbano veniva quindi ad assumere due funzioni: quella di casa lavoro per l'attenuazione delle misure di sicurezza degli internati e quella di casa di reclusione a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti. Nel 2017 la gestione interna delle serre per il lavoro agricolo fu affidata a Caleidos, la cooperativa nota per la sua egemonia nel modenese, in particolare nella gestione di canili, gattili e centri di accoglienza per richiedenti asilo, descritti dalle stesse persone che li hanno attraversati come luoghi di prigionia, controllo e sfruttamento. Nel 2020 a mettere le mani in pasta nel business legato alla casa lavoro è la cooperativa modenese L'Angolo, a cui è affidata la gestione della lavanderia industriale, così come al Sant'Anna di Modena. La cooperativa è nota alle cronache perché anch'essa nel business dell'accoglienza dava da mangiare ai migranti che vivevano nelle sue strutture cibo avariato e mordicchiato da ratti che insieme alla muffa invadevano letti e stanze. Ma arriviamo al 2021. A ricoprire l'incarico di direttrice del Forte Urbano di Castelfranco Emilia è Maria Martone, la direttrice pro tempore ai tempi della rivolta nel marzo 2020 e tuttora in forza del carcere di Sant'Anna di Modena. Recentemente è stata elogiata dal SAPPE per gli sforzi da lei compiuti nel ripristino e ricostruzione del carcere cittadino dopo la rivolta. Proprio a proposito di quest'ultimo punto, è bene fare un passo indietro e ricordare quanto recentemente avvenuto. La risposta immediata dello Stato alle rivolte nelle carceri del marzo 2020 fu una strage di 14 morti tra le persone detenute. Nel dicembre scorso, 5 tra i detenuti che erano stati trasferiti da Modena ad Ascoli, Piceno, dopo la rivolta al Sant'Anna, presentarono un esposto alla Procura di Ancona, in quanto testimoni della morte di Sasha Piscitelli nel carcere ascolano. Testimoniarono degli spari, dei pestaggi, delle guardie e della mancata assistenza medica prima dei trasferimenti nel carcere Sant'Anna di Modena. Uno di loro è proprio Belmonte. Pochi giorni dopo, con il pretesto ufficiale di dover essere sentiti dalla Procura di Modena, i cinque furono riportati in quel luogo di strage e tortura. Furono rinchiusi in una stanza liscia, al freddo, con le finestre rotte e privati della possibilità di mettersi in contatto con i propri cari. Fu evidente a tutte e a tutti il carattere intimidatorio e di ritorsione che ebbe quel gesto. Si mobilitarono in molte e molti in breve tempo e la solidarietà fu ampia. Dopo qualche giorno furono infine trasferiti altrove, ciascuno verso una diversa destinazione penitenziaria. Dopo diversi giorni si venne a sapere che Belmonte era stato trasferito a Piacenza, dove a febbraio la magistrata di sorveglianza di Reggio Emilia, su richiesta del carcere di Piacenza, gli notificava il provvedimento di censura di 3 mesi sulla corrispondenza. Oggi, appena finita, Belmonte si trova internato nella casa di lavoro di Castelfranco, la cui direzione è in mano alla stessa persona che dirigeva, all'epoca dei fatti raccontati dall'esposto, il carcere di Sant'Anna. Non dimentichiamo che nell'inchiesta della procura modenese sulle morti di Sant'Anna, questa stessa direttrice ha affermato che tutti i detenuti, prima dei trasferimenti, avevano ricevuto assistenza medica presso il presidio sanitario allestito nel piazzale. Peccato che durante e dopo questi trasferimenti altre 4 persone perderanno la vita e altre 5 la perderanno proprio dentro il suo carcere. Nonostante le minacce, le ritorsioni, i pestaggi, le violenze fisiche e psicologiche e i decenni passati dentro le galere, il 27 aprile Belmonte faceva sapere tramite lettera di aver intrapreso uno sciopero della fame perché da diversi anni mi tengono sequestrato dallo Stato italiano e quindi non ho altre vie per protestare contro questo abuso di potere che ha il nostro ordinamento penitenziario in Italia. Mi trattengono con delle normative di Benito Mussolini e poi festeggiano la liberazione dal fascismo. Ad oggi non è stato ancora possibile ricevere notizie sulle sue condizioni di salute e se ha proseguito lo sciopero della fame. Credete di non essere colpevoli solo perché non siete coinvolti direttamente? Ma io sono stufo! Sono stanco di guardare in silenzio! E ora voi volete ascoltare una canzone? Volete qualcuno che mi sollevi il morale? Beh, non sarò io! e da una condizione di reclusione all'altra, passiamo all'altro argomento di stasera, cioè gli aggiornamenti su ciò che è successo al CPR di Torino, cioè la morte nella notte tra sabato e domenica di un prigioniero, Musa Balde, un ragazzo di 23 anni originario della Guinea, che appunto muore all'interno del CPR di Torino. E le fonti ufficiali parlano di suicidio, ma vedremo che questa ipotesi non è del tutto convincente. E, beh, intanto martedì c'è stato un presidio davanti al CPR di Torino, appunto per denunciare questa situazione, e vado a leggervi intanto una testimonianza appunto dal CPR. E la fonte è NoCPR Torino. Abbiamo sentito la voce di alcuni reclusi che con coraggio hanno voluto raccontarci quello che sta accadendo dentro il CPR di Torino. Il ragazzo deceduto nella notte tra sabato e domenica appunto era Musa Balde, aveva 23 anni ed era originario della Guinea. Il 9 maggio scorso era stato aggredito a colpi di spranghe da 3 ragazzi italiani a Ventimiglia, luogo di frontiera al confine con la Francia. Dopo essere stato massacrato di botte, era stato portato in ospedale a Bordighera e dimesso con prognosi di 10 giorni per gravi lesioni ed un trauma facciale. A causa della denuncia in questura era emersa la sua irregolarità sul territorio nazionale ed era stato portato al CPR di Corso Brunelleschi a Torino, dove da subito è stato rinchiuso nell'area rossa insieme ad altri detenuti e successivamente durante la serata di sabato portato in isolamento all'interno della sezione denominata ospedaletto. Secondo la testimonianza di un ragazzo, nonostante dimostrasse chiari segni di sofferenza causati dalle lesioni al corpo, Musa Balde non è stato mai visitato da nessun medico o membro del personale medico del CPR. Ci ha raccontato che dopo il trasferimento in isolamento, avvenuto senza una chiara motivazione, lo ha sentito urlare e chiedere l'intervento di un dottore, senza mai ricevere una risposta. Domenica mattina la versione del suicidio si è diffusa rapidamente in tutte le aree del centro, provocando numerose proteste tra i reclusi a causa del fatto che nessuno di loro ha creduto possibile che Musa Balde si sia potuto suicidare, accusando fin da subito la polizia e il personale medico del CPR di quanto accaduto. Cosa è accaduto realmente durante la notte non si sa con certezza e probabilmente non si saprà mai, anche perché non c'erano altri compagni in cella con lui. E anche se ci fossero stati, sarebbero stati rimpatriati rapidamente per eliminare scomodi testimoni, come già successo dopo la morte di Faisal nel 2019, avvenuto sempre all'interno del CPR di Torino, nella stessa sezione di isolamento dove si trovava Musa Balde, e nel 2020 dopo la morte di Vakhtang, avvenuta nel CPR di Gradisca di Sonzo. Una cosa però è certa, ovvero che un altro ragazzo è entrato dentro un centro di permanenza per il rimpatrio con le sue gambe ed è uscito dentro una bara, ucciso dallo Stato che ha concepito e continua a giustificare questi luoghi infami. I ragazzi reclusi all'interno dell'area verde e dell'area blu hanno intrapreso uno sciopero della fame, rifiutando il cibo avariato che gli viene fornito, per protestare contro la morte del loro compagno e contro le condizioni in cui sono costretti. Vabbè, e poi insomma raccontano di questa presidio solidale da fuori. E ne approfitto per dare un aggiornamento anche sul CPR di Gradisca. Magari poi vediamo un attimo, c'è un articolo molto interessante che hanno curato i compagni e le compagne di Abbasso le Frontiere, e un articolo che riguarda il funzionamento delle deportazioni dalle navi quarantena alla Tunisia passando per Gradisca, quindi Lampedusa, navi quarantena, Gradisca, rimpatri in Tunisia. Ma prima di aggiornarvi su questa cosa, e volevo dire che proprio oggi è successa una cosa al CPR di Gradisca, ovvero sia tra la serata di ieri e il primo mattino di oggi un ragazzo ucraino renitente alla leva, clandestino, ma con insomma aveva vinto un ricorso contro l'espulsione per questa ragione di essere renitente alla leva e quindi di rischiare nello stato d'origine grosso, nel momento, sì, nel caso di un rimpatrio, è stato trasferito da Milano, cioè è stato catturato, portato in via Corelli a Milano e poi trasferito, appunto, probabilmente nottetempo a Gradisca. Allora si temeva il peggio, nel senso che si temeva che appunto questa fosse una mossa diversiva per rimpatriarlo, nonostante il ricorso in qualche maniera vietasse questo rimpatrio. Era stata anche fissata l'udienza per la convalida a questo sabato mattina presso appunto il giudice di pace di Gradisca, e quindi ci eravamo anche attivati per vedere insomma cosa si poteva fare. E di qualche ora fa la notizia che questo giovane compagno antimilitarista ucraino è stato liberato. Hanno dovuto liberarlo in quanto non c'erano gli elementi per trattenerlo, e quindi lo hanno praticamente, ora è libero. Questa vicenda si è conclusa in maniera positiva, ma per dire come per lo Stato che crea appunto questi lager istituzionali, e la vita delle persone non conti nulla, cioè loro possono prelevarti, portarti da dove abiti tu a 500 km di distanza, minacciarti di, cioè, chiuderti in un posto allucinante che può far andare fuori di testa chiunque, minacciarti di rimpatriarti in un luogo dove sai che non salverai la pelle, e poi così in un batter d'occhio dirti: ah, tante scuse, abbiamo sbagliato noi, tante scuse, se ne vada pure, esca di qua, se ne vada. Chiaramente esci di lì senza nulla, perché quando ti prendono non hai effetti personali, non hai soldi, non hai niente, praticamente hai solo quello che avevi addosso quando ti hanno preso. E questa è il sistema di trattare gli esseri umani per lo Stato, non solo per lo Stato italiano, ma in generale per lo Stato. E parlando sempre di Gradisca, appunto, vi leggo brevemente dei pezzi di questo articolo che hanno curato le compagne e compagni dell'assemblea no CPR. Ci dicono: il CPR di Gradisca continua a essere l'hub informale per i respingimenti a caldo dalle navi quarantena. Grazie agli accordi Italia-Tunisia presi dalla ministra dell'interno Lamorgese a Tunisi nell'agosto 2020, atti a contrastare il traffico di migranti, l'Italia deporta senza permettere la richiesta di asilo centinaia di giovani e giovanissimi scampati al naufragio e arrivati sulle coste italiane. In breve, le persone che sopravvivono alla rotta del Mediterraneo centrale vengono immediatamente rimpatriate perché intraprendano il viaggio un'altra volta. La procedura della deportazione, secondo le informazioni raccolte finora, funziona così. 1. Sbarcate a Lampedusa o Pantelleria, le persone vengono portate sulle navi quarantena. 2. Né qui né in alcun momento successivo viene loro permesso di perfezionare una richiesta di asilo. 3. Dopo il periodo di quarantena vengono trasportate in modo coatto al CPR di Gradisca, in zona blu, isolate dal resto dei detenuti. 4. Qui in generale non hanno la possibilità di usare il telefono per avvisare le famiglie, non viene fornita loro una SIM card e spesso non hanno la possibilità di comunicare con alcun avvocato. 5. Il martedì e il giovedì mattina all'alba gruppi di 10 o 20 persone vengono caricati su degli autobus della polizia e trasportati solitamente fino a Milano. Né loro né eventuali avvocati vengono informati con anticipo. 6. E da qui prendono un volo. Secondo alcune voci si tratta di aerei della compagnia spagnola Vueling, che le porta a Palermo. A Palermo, 7, un console dà l'autorizzazione per la deportazione dopo averli sommariamente identificati come cittadini del proprio paese. 8. Nel caso avvengano errori di identificazione, per esempio se vengono trasferite a Palermo persone tunisine con una richiesta d'asilo in corso, cioè giunte prima che questo meccanismo venisse messo in moto o arrivate in altro modo, allora questa procedura si interrompe. Ci sono casi di persone che una volta arrivate a Palermo sono state infatti rispedite a Gradisca. L'Italia sta attuando deportazioni seriali che, oltre a favorire chi specula sui traffici di persone, mettono a rischio la vita di persone, obbligandole a intraprendere una seconda volta il viaggio. Sembra un meccanismo ad hoc, perfezionato per effettuare respingimenti illegali come quelli che avvenivano a Trieste verso la Bosnia, respingimenti immediati che non garantiscono alle persone la possibilità di chiedere asilo. Aggradisca come in tutti i CPR, le condizioni sono degradanti, disumanizzanti, umilianti. Nei video che seguono, vabbè, loro poi i compagni propongono anche dei video che chiaramente via radio non sono, non si possono vedere. E comunque, insomma, sono delle dei documenti importanti. Ci dicono i compagni e le compagne che le voci che si stanno levando per Mussa Balde non sfumino con alcuni articoli di giornale. È già avvenuto per Vakhtang e non può risuccedere. Il CPR uccide strutturalmente, il CPR crea un mondo terribile per tutte e tutti. Il CPR serve a far guadagnare cooperative con le mani sporche di sangue e a ricattare persone fragili sul lavoro. Il CPR va distrutto. Per Mussa Balde, per Orghest Turia, per Vakhtang Enukidze, per Faisal, per Majid El Kaudra e per tutti coloro che con il CPR sono stati ammazzati. Meno di una merda. Sì, ritorniamo alla voce, appunto, Zardins Magnetics, giovedì 27 di maggio. E allora, lo scorso giovedì avevo così proposto una riflessione su la questione della legislazione, diciamo, protettiva delle minoranze o comunque dei soggetti considerati vulnerabili, appunto, dallo Stato stesso, ma insomma anche dalla cultura, così. E appunto una riflessione su questo tipo di legislazione, diciamo, protezionista, e sulla necessità di rifiutarla comunque da parte di chi ritiene importante sovvertire, diciamo, il reale, la società così come è costituita. E in questa riflessione, appunto, avevamo un po' così analizzato anche la genesi di questo tipo di legislazione, la cultura che ci sta sotto, invece anche però le risposte alternative a questa, diciamo, deriva legalitaria e autoritaria. E così, prendendo spunto da quello che abbiamo già detto la scorsa settimana, volevo proporvi questo giovedì una sintetica genealogia dell'autogestione femminista in Italia, parlando proprio di strutture di autodifesa, diciamo, di dispositivi di autodifesa, ma anche di strutture per l'autogestione e l'autodifesa, l'autotutela della salute. E lo faccio con l'aiuto di Nicoletta Poidimani, che ha scritto questo articolo sulla autodifesa femminista in Italia, appunto, una pratica autogestionaria. Un articolo che è interessante, perché tocca un sacco di cose e quindi è molto stimolante, e poi perché è scritto in prima persona, quindi, diciamo, ha una sua vivacità anche di struttura, per cui è facilmente, cioè, si ascolta volentieri, si legge e si ascolta volentieri. Quindi vi leggo dei brani di questo approfondimento, e poi avremo modo, magari anche nelle settimane prossime, di approfondire anche ulteriori singoli aspetti. Sono nata nel 1965, quando si formava a Milano il primo gruppo di donne autonomo dai partiti e separato dal movimento misto, il DEMAU, Demistificazione Autoritarismo Patriarcale. Nel 1965, per la prima volta nella storia italiana, una donna siciliana di 18 anni, Franca Viola, dopo essere stata rapita e violentata, aveva rifiutato il matrimonio riparatore con il suo violentatore e aveva denunciato lui e i suoi complici. Nel 1965 era ancora in vigore il codice fascista, che in un articolo, abrogato solo nel 1981, ammetteva che in caso di violenza carnale, anche su una minorenne, lo stupratore potesse estinguere il reato sposando la vittima. Per non essere considerate disonorate, perché non più vergini, le donne, anche minorenni, erano quindi costrette dalla famiglia a sposare il proprio violentatore. Franca Viola ruppe con coraggio quella terribile consuetudine, malgrado le intimidazioni e le difficoltà opposte dall'ambiente circostante. Si trattava di due segnali forti che a posteriori ci fanno capire quanto nel nord e nel sud di questo paese, caratterizzati da storia, economia e a quel tempo culture differenti, le donne stessero aprendo delle brecce nel monolitico dominio patriarcale. Alla fine degli anni 70 ho incominciato a frequentare il movimento delle donne, sollecitata da un crimine di pace che ha profondamente segnato quel periodo in Italia. Il 10 luglio del 1976 ci fu una fuga di diossina da una fabbrica di Seveso, piccolo paese densamente popolato del nord Italia, a circa 30 km dalla Svizzera e confinante col paese in cui abitavo io. La fabbrica si chiamava ICMESA ed era del gruppo Roche. I medici erano totalmente impreparati, non sapevano di cosa si trattasse, sospettavano e attendevano istruzioni. Poi arrivò la notizia a confermare i peggiori sospetti. Era diossina, e la diossina è un veleno invisibile e duraturo, senza antidoto. E le donne incinte? Si parlò di aborto, si scatenò una guerra d'opinione e il gioco divenne politico. Dal punto di vista sociale, all'epoca, i meccanismi di coesione si arenarono su due atteggiamenti opposti. L'uno che leggeva il disastro di Seveso come crimine del capitalismo, la sinistra e le femministe. L'altro che lo leggeva come disgrazia, i cattolici, che arrivarono a parlare di diossina politica. Ma la vera posta in gioco erano le donne e la loro autodeterminazione. Ancora oggi, se si va nei siti web degli antiabortisti italiani, dunque nei siti contigui all'estrema destra neofascista e degli integralisti cattolici, si trova questo teorema dell'uso politico del disastro di Seveso per far approvare 2 anni più tardi, nel 1978, la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Se il movimento delle donne si era concentrato negli anni 60 soprattutto sulla pratica dell'autocoscienza, negli anni 70 l'autogestione della salute diventò una pratica diffusa e condivisa che si affiancava all'analisi dello sfruttamento lavorativo delle donne in famiglia e nei luoghi di lavoro. Autogestire la propria salute significava non soltanto separare la sessualità dalla riproduzione, ma anche sottrarsi al controllo patriarcale in cui la Chiesa cattolica giocava un importante ruolo e al potere medico. Significava prendere in mano la propria vita. Nel 1974, Our Bodies, Ourselves venne tradotto e pubblicato in italiano con il titolo Noi e il nostro corpo, un libro, appunto, una specie di manuale, diciamo, femminista, che forniva ulteriori strumenti ai gruppi di donne che già praticavano l'autogestione della salute. Quando poi a metà degli anni 70 una legge istituì i consultori familiari e fu conseguentemente soppressa l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia fondata da Mussolini, gran parte del movimento delle donne criticò aspramente tanto il fatto che fosse centrata sulla coppia eterosessuale e sulla famiglia più che non sulla donna, quanto la medicalizzazione che la legge introduceva a fronte dell'autogestione della salute che già dal 1973 si andava promuovendo attraverso collettivi e luoghi aperti a tutte le donne e nati sul modello dei gruppi americani di self-help. Anche per l'interruzione di gravidanza, autodeterminazione ed autogestione erano considerate pilastre fondamentali e questo portò ad uno scontro con la parte riformista del femminismo, legata ai partiti della sinistra parlamentare, che chiedeva una legge per regolamentare la pratica dell'aborto nelle strutture pubbliche, anziché rivendicarne la depenalizzazione e dunque la possibilità che diventasse una pratica che le donne potevano gestire fra di loro, come già facevano clandestinamente nei propri consultori, completamente autofinanziati, autogestiti e sganciati dal controllo dello Stato e del potere medico. L'AED, Associazione Educazione Demografica Femminismo, nato a Bergamo nel 1973 e a Roma nel 75, così definisce che cos'è un consultorio. Non è un centro medico, è informativo, femminista, alternativo, autogestito, autofinanziato. Perché siamo convinte che le donne devono essere più informate e agguerrite politicamente per stroncare le speculazioni e perché la libertà di scelta per cui noi lottiamo può esistere solo se c'è una preventiva conoscenza delle cose. Perché è gestito dalle donne e ha come obiettivo la difesa delle donne e della loro salute, perché è una struttura che non fa parte di quella miriade di istituzioni che ruotano intorno agli interessi dello Stato o agli interessi privati della classe dirigente. Questa è la ragione per cui all'interno vengono rifiutati gli specialisti del comportamento, psicologi, psicanalisti, sessuologi, sociologi e assistenti sociali, eccetera, che altri non sono che nuovi agenti della nostra oppressione. Li rifiutiamo, siano essi uomini o donne. Infatti, oggi, la borghesia, consapevole di suscitare una minore diffidenza, spinge le donne nei consultori di Stato come specialiste del comportamento. E continuiamo con questo approfondimento sui consultori autogestiti degli anni 70. Beh, l'esperienza di AE di femminismo, ma non solo. E questo, cioè, è un modo, diciamo, cioè, a sentire certe cose ora, oggi come oggi, sì, sembrano cose cioè, veramente utopistiche, ma cose che non sono mai avvenute, nel senso che oramai anche i consultori, cioè i consultori pubblici sono veramente ridotti a, cioè non hanno nemmeno lontanamente, insomma, una funzione di aiutare, diciamo, le donne a prendere consapevolezza e a prendere in mano, diciamo, ad autogestire la propria salute, anzi sono sì, diciamo, degli ambulatori, spesso purtroppo anche di serie B, perché non sono molto molto curati, e sono comunque dei luoghi in cui si controllano i comportamenti delle persone, si danno delle donne prevalentemente, si danno dei consigli stereotipati relativi sia alla contraccezione sia ad altri aspetti della sessualità, e questo aspetto, appunto, di autodeterminazione e di autocura e di autoaiuto è totalmente scomparso. Però queste, appunto, queste cose che vi sto leggendo dimostrano che siamo state guerriere, e quindi se siamo state guerriere vuol dire che è possibile esserlo ancora. E allora continuiamo con questa, vediamo com'erano i consultori A e D femminismo. Non prevedevano personale medico all'interno, ma lo sceglievano accuratamente all'esterno, con rapporto di collaborazione che poteva quindi essere rotto in qualsiasi momento si presentassero incompatibilità di qualsiasi tipo. E quindi erano consultori informativi, politico-culturali, mai consultori medici. Spiegava il manuale femminista. Strutturare il consultorio in questo modo significa permettere a qualsiasi donna, casalinga, operaia, laureata o no, di agire all'interno del consultorio senza il confronto diretto e costante con personaggi, medici o psicologi, eccetera, che per via della laurea specifica nel settore tendono sempre a rendere esclusivamente scientifico, e quindi loro, quanto invece politico, e quindi nostro, di noi donne. Una compagna che ha fatto parte dell'esperienza dell'AED di Roma racconta: poco dopo l'approvazione della legge 405-75 che istituisce i consultori familiari, alcuni collettivi femministi occupano la sede dell'Istituto di Medicina Preventiva a Bologna, e il loro documento ne spiega le ragioni. Uno degli obiettivi del movimento femminista era la pratica del self-help e dell'autogestione, ma dopo l'entrata in vigore della legge sui consultori familiari, le compagne che vi si trovano all'interno fanno solo volontariato e non hanno nessun potere decisionale rispetto alla struttura, e perciò nessuna incidenza politica. Il femminismo autonomo e antagonista deve opporsi a queste leggi e ostacolare le nuove leggi e prassi in divenire, anticipandone i pericoli e impedendo che nuovi organi di controllo e comando si strutturino e si consolidino per agire contro le donne. La prova che questa tattica è servita a scomporre il movimento delle donne data dal 1975, con la proposta di legge varata nel 1976 sui consultori pubblici. È infatti da questa data che il movimento femminista si deteriora. Larghe fasce di femminismo, dimentiche dell'anima originaria, l'autonomia, hanno plaudito alla struttura pubblica, scavando subdolamente nel movimento femminista al fine di spezzare l'unità fra teoria e pratica e sbandierando demagogicamente la priorità del gratuito. Il potere si è riappropriato in questo modo dell'umanità femminile, proponendo per la soluzione dei nostri problemi concreti i suoi specialisti. Dobbiamo concretamente difenderci, costruendo le nostre strutture dove sviluppare una resistenza collettiva. Lo dobbiamo fare per non ingenerare il dubbio di una nostra corresponsabilità nell'oppressione che subiamo o che verremo a subire, e per ribadire con chiarezza la nostra contrapposizione al potere del capitale, che vorrebbe trasformare la società in una gigantesca galera dove tutto è condizionato, condotto, controllato, numerato, schedato, omologato, oppure violentemente represso. E questo era un articolo che appariva su Controinformazione nel gennaio del 1980. Allora, io mi fermo qua perché vedo che ho parlato già troppo. Continueremo ad approfondire questa faccenda. Era comunque per dare, per continuare sulla scia della scorsa settimana, sul far conoscere anche, insomma, delle pratiche che magari non è che sono proprio, che non è facile ricordare, anche perché la realtà che stiamo vivendo è totalmente in controtendenza, con uno strapotere medico esagerato, contemporaneamente con una trascuratezza in realtà della salute come benessere complessivo delle persone, e quindi diciamo che credo che sia necessario ripercorrere anche storicamente un po' questi fili rossi, che comunque non sono spezzati perché sono, diciamo, sotterranei. E come dicono le donne curde, sono dei filoni sotterranei di un fiume che però non si è prosciugato, e quindi ricordarlo va bene perché vuol dire avere anche la possibilità di fare riemergere, riaffiorare questo fiume. Intanto in sottofondo lasciamo questa band, che è una band dell'Emilia Romagna, praticamente di varie cittadine della zona, sono i Johnstone Kids, mentre i brani che avevamo ascoltato in precedenza era di un gruppo di Rovereto, in provincia di Trento, i Gioia. E comunque entrambe le band fanno parte di questo esordio su vinile datato 2018 per appunto tutte e due le band in questo split. Siamo, direi, giunti al termine di questa trasmissione, che è Zandis Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica, qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20:10 circa alle 21:30. E altra cosa che vi dico, come ogni volta, vi elenco dei nostri contatti, che dove potete ovviamente scriverci. E allora, se ci volete scrivere via mail, l'indirizzo è liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, questo è per il contatto mail via rete. Se invece volete scriverci sotto forma cartacea, vi do anche questo indirizzo, che è Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121 Trieste. Ripeto anche questo: Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121 Trieste. Inoltre, se voi volete riascoltare questa trasmissione o anche ascoltare quelle precedenti e delle settimane scorse, c'è questo indirizzo: zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora questo è tutto per questa giovedì, ci risentiamo ovviamente la prossima settimana e vi lascio con questo ultimo brano di questa band inglese, i Subhumans, da questo loro album datato 1985. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. Yeah.